Con Simone Ferretti, uno dei curatori del 24esimo meeting internazionale antirazzista a Cecina, provincia di Livorno, dal 12 al 15 settembre. Simone, ben trovato. Ben trovati a voi, buonasera. Senti, Raccontaci. sono 24 anni che svolgiamo il meeting internazionale antirazzista e lo facciamo con l'idea di riuscire a costruire un momento per discutere di diritti, per discutere di solidarietà e per cercare di mettere insieme campagne che possono aiutarci durante l'anno nell'attività quotidiana e come ARCI, ma anche come altre associazioni della Toscana. Alla regione toscana stessa cerchiamo di sviluppare. Per cui 24 anni di impegno e di attività in questo settore. Come saranno organizzate le giornate? Sì, dunque, la mattina soprattutto sono incentrate sulla formazione, per cui avremo formazione per operatori dell'accoglienza, momenti dedicati a laboratori per giovani sul tema dell'intercultura. Formazione per giornalisti con l'Atlante delle guerre e dei conflitti, questo tipo di formazione è anche accreditata dall'Ordine dei giornalisti. E poi nel pomeriggio momenti centrali di dibattito, discuteremo di varie tematiche, dall'accoglienza e del futuro dell'accoglienza, arriveremo ad altre tematiche come quelle dell'accoglienza in Europa e il ruolo, diciamo così, dei paesi del Mediterraneo. A una giornata particolare che abbiamo voluto chiamare Strani Eroi e che in qualche modo cercherà di trovare un livello di dibattito sul tema del diritto alla cittadinanza. Per quanto riguarda invece i momenti dello spettacolo. Sì, allora abbiamo una prima serata con il coro partigiano dell'Ampi di Rosignano, a cui poi seguirà il dibattito del Presidente della Regione Toscana con il Presidente Emerito di Ampi Smuraglia. Poi avremo l'appuntamento con le bestie rare DJ Amaro, poi avremo un appuntamento con Oh My Pop, quindi una serata collegata ad una festa e con Regina Miami, con l'Arci Gay, e poi l'altra serata dove appunto nella giornata Strani Eroi sul diritto di cittadinanza ci verranno a trovare Motta, Lizen Circus, Benvenue e Rancore. Quest'anno c'è un motivo conduttore forte rispetto alle tematiche affrontate? Ma sicuramente la situazione che stiamo vivendo mette al centro della nostra discussione quello che sarà il futuro dell'accoglienza, ma non solo. Abbiamo sempre parametrato la necessità di riuscire a individuare nel nostro percorso il domani come momento di riflessione. Il diritto di cittadinanza è sempre stato un tema conduttore, fortunatamente avremo per tutta la settimana dei ragazzi cosiddetti di seconda generazione che staranno insieme a noi e discuteremo delle prossime campagne da sviluppare nel nostro paese per renderlo più civile. In Toscana, com'è la situazione rispetto all'antirazzismo? Ma sicuramente lo statuto della regione toscana, ma anche le collegate al tema dei migranti hanno dato sicuramente dal punto di vista istituzionale buone risposte. Il vento e le ultime elezioni sicuramente pongono l'attenzione su una dimensione che non è più quella della Toscana rossa e felice, semmai lo è stata. Abbiamo necessità giornalmente di rispondere a situazioni molto preoccupanti. A partire da questo fine settimana con la festa di Casa Pound a Grosseto, tra l'altro, per poi non ricordarci delle varie situazioni che comunque hanno avuto e soprattutto dei vari proclami che sono venuti da vari sindaci che sono diventati sindaci di Siena, di Pisa e di Massa. Insomma, è una situazione nella quale l'impegno è molto e soprattutto l'impegno nei prossimi mesi dovrà essere ancora più forte di tutto quello che abbiamo messo in piedi fino adesso. Dato che si chiama anche internazionale questo meeting rispetto a riferimenti esterni. Sì, noi abbiamo e continueremo a avere tutta una serie di contatti con delle reti internazionali, a partire dai movimenti antirazzisti, francesi, ungheresi, avremo esperienze polacche che verranno a parlarci delle loro situazioni, avremo, diciamo così, un quadro europeo e non solo che rappresenta un po' oggi il tema e il tavolo di discussione che credo che dobbiamo portare avanti, non soffermarci solamente al nostro paese. Ben sapendo che la questione è più ampia, come sappiamo, viene discussa nei tavoli europei, noi cerchiamo di rinsaldare e ampliare le nostre reti, di pratiche antirazziste. In chiusura, Simone, ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, allora c'è un sito mia-arci.it, c'è il Facebook Meeting Internazionale Antirazzista, questi essenzialmente i due canali dove potete trovare tutte le informazioni sul meeting che, come detto, si apre il 12 e chiuderà il 15 settembre a Marina di Cecina. 24esimo meeting internazionale antirazzista, un saluto e un ringraziamento a Simone Ferretti. Simone, un abbraccio e a risentirci presto. Un abbraccio a voi e a presto.